cioè tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine eccetera, però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene, allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione. Poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Tu stimoli andare al cesso. Quando sento te mi viene voglia di cagare. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Ragazzi, voi vi rendete conto, Parenzo, mi rivolgo soprattutto a te, perché devo rivolgermi per forza a te, ci sei tu qui, non è che posso... forza, con chi vuoi parlare? Scusi, sì, no, Mauro Damanto, ma non ho capito. No, Mauro Damanto, ma no. Innanzitutto voglio rivolgermi a te, poi mi rivolgo a tutti. Sì. Cioè, poi si parla di tradizioni, di mantenimento delle tradizioni, il Natale, e ancora nell'Italia, anzi nella Sicilia del 2015, a Paternò, si fa l'inchino durante la processione. L'inchino al boss durante la processione. Ma chiudete tutto, mandate l'esercito in quel paese subito. Poi si parla di tradizioni natalizie, ma alcune tradizioni le conosciamo come sono. A parte, potremmo parlare a lungo delle processioni, e vabbè, ci sono ancora le processioni. Vabbè, quello però, scusa, una roba, quello... roba medievale, diciamo la verità. Ma medievale per te, roba che medievale. Sei un senza Dio, senza patria, un senza tutto. Le processioni con la Madonna sul piedistallo, là. Ma che c'entra quello? Ognuno fa quello che vuole. Santa Barbara, la che cos'è? La mafia no, però, amico mio, la mafia no, è un'altra cosa. Dai, Santa su, Barbara, Linky. Uno può chiedere... Ma perché adesso io sono, ti ho detto, di un'altra parrocchia, quindi non è che devo difendere Santa Barbara, Santa Caterina. Ma le processioni, è una cosa normale, secondo le processioni. Ma perché ci nel 2015 ancora, non è il segno di una cosa medievale, ancora la processione col simbolo della Madonna dietro, e la gente dietro che prega, ma è una roba normale, diciamo la verità, nel 2015. Abbiamo già tanti problemi noi con questa trasmissione, dobbiamo metterci contro anche questi ora. Io non posso dire quello che penso, vabbè, e non posso dire quello che penso. Ma non è che abbiamo gli animalisti, la polizia, il... Sì, d'accordo, ma se a te sembra una cosa normale. Me sì, però, che nel 2015 se... in un piccolo paese siciliano si faccia una sfilata con la gente dietro, una carrozza con la Madonna sopra, amico mio, ma perché devi dire se per ti forza piace devi... se ti piace così? Ma a me no, perché io sono di un'altra, lascia perdere di un altro la partito, ma diciamo, se ti piace però... così va bene, comunque a me non me ne frega niente, ognuno può fare quello che vuole. Il problema però non è la processione, il problema è l'inchino fanno... al mafioso, l'inchino quello al è il problema, il boss appunto. A proposito di tradizioni, c'è un signore che è un preside di una scuola di Trieste, dirigente scolastico, come si dice adesso a Trieste, che si chiama Andrea Abon. Data di nascita, vi do il curriculum personale di questa persona, 16 giugno del 1958. Abitante in... no, non ve lo do l'indirizzo. Numero di telefono, non ve lo do. Il quale ha detto in una trasmissione televisiva locale questa frase qui, state bene attenti, perché ha paragonato in sostanza il presepe all'ISIS, cioè la simbologia della tradizione, di cui a me non fotte nulla, come avete capito, come avete percepito, non fa all'ISIS. Sì, ma lo posso anche fare, in realtà non lo faccio, lo faccio io non, ecco, io ad esempio non immagino Cruciani che fa il presepe. No, non lo faccio. Cioè immagino che tu fai altre cose, ma il presepe non immagino che tu lo faccia, no? Possono fare più cose insieme. Sì, ma no, tu che però materialmente fai la caverna, questa la grotta, l'asinello, buon anno, il bambino Gesù, Salvini. No, quello è il Re Maggio, veramente. Buon anno è l'asino del presepe, no? Vabbè. È il bue. Sentiamo sto Avon, dai. Io credo che i simboli siano anche possano diventare armi. E quindi se io tiro fuori il simbolo di qualsivoglia religione su questi aspetti per creare divisioni e conflitti, mi qualifico e non sono tanto distante da chi va col Kalashnikov in un teatro, se mi permette il paragone, perché sto dividendo. Dai ragazzi, ma chi è questo qua? Ma com'è possibile? Com'è possibile? Io per carità non sono appassionato di simbologia cristiana e religiosa, non me ne fotto assolutamente nulla, come sapete sono totalmente ateo. Parenzo invece è molto più rispettoso di me e no, molto più, come dire, politicamente corretto. Ma lasciamo perdere questo termine. No, ma non c'entra niente, infatti. Però non voglio passare per il bacchettone, cosa che non sono. Di qualcosa a questo signore, ti prego. Di qualcosa a questo signore, dai. Cioè no, i simboli, detto... esporre i simboli è come ha andare detto... con i Kalashnikov, dai. No, ma ha detto lo possiamo definire un cretino o no? Lo possiamo definire una follia, ma lo possiamo definire un cretino o no? Ha detto una follia. Niente, sicuramente. Non riesci a definire un cretino. Vabbè, è un cretino, sì, certamente, ha detto una follia. Ecco, ci sei arrivato, follia così. Pari a quella fatta da quei signori della Lega Nord, della Fu Indipendenza della Padania, che si sono presentati a cantare Il bambino scendi dalle stelle con Bambin Gesù davanti a, cioè uguale l'uso dei sim, a è identico. Questa mattina no, non puoi dire una cosa del genere. Uguale, dai, identico, hai paragonato identico. Salvini all'ISIS stamattina. No, ecco, ti volevo. Ecco, ti volevo qui nel risentiamo, però adesso una cosa bizzarra, facciamo risentire Parenzo che è qua, una specie di interpretazione autentica, sì, del pensiero di Parenzo. Fenomenologia di Parenzo, una trasmissione bellissima, si parla solo fenomenologia, hai visto che roba? Perché Salvini, che va lì con il presepe in una scuola pubblica, sequestra Dio, cioè fa un uso politico di Dio, che è la stessa cosa, diciamo, è la stessa cosa che fa l'ISIS. L'effetto dell'uso politico di Dio è identico. Ragazzi, ma sei veramente patetico, dai. Va bene, ma io capisco la. So, è come la. No, anzi, io faccio bene con la cosa. Federica, che era in collegamento ai pazienti, ha avuto una mezza sincope. No, non si può dire così. Ma non si può dire. Il califfo, hai paragonato il califfo all'ISIS. Ma scusami, il califfo, ma non nelle azioni, ma nella pratica di sequestrare Dio. Ma per tu propri sei. Fini ma politici, tu sei, sì, capisci com'è la comunicazione. Non dire stronzate. Io so benissimo qual è l'effetto di portare un coniglio. Di portare un coniglio in diretta. Se tu fai un'operazione come quella. Un'operazione come quella, cioè paragoni. Ma la mia è un'iperbole. Ma lascia perdere le iperboli, sei troppo sofisticato stasera. Se tu usi. Oh, gente, se ignorante, tu usi, guardo su Google la parola iperbole, se tu capisci? Usi la parola ISIS e la affianchi a Salvini dicendo che entrambi fanno un'operazione di sequestro, cosa non vera, peraltro, perché quelli sono islamici e credono nell'Islam, non diciamo cazzate. No, se quelli tu, fanno un uso politico di Allah. Vabbè, se tu fai questa operazione qua. Affianchi Salvini all'ISIS. Ma cioè, che? Sei ma al assolutamente. Delirio. Sei assolutamente al delirio. No, per carità. Attaccatelo, voglio che lo massacrate stasera su questo. Amici leghisti. Mi pare che non ci sia bisogno. Amici di... della Lega. Non, sì, non c'è bisogno. Che chiami non c'è le armate verdi. Le armate verdi. C'è un altro personaggio stasera, c'è un altro personaggetto stasera. In realtà poi se uno va a vedere bene non dice delle cose totalmente sbagliate. Certo, il signor Vecchioni. Come no, Roberto Vecchioni, mio amico carissimo. Forse bravo. La vecchiaia ogni tanto fa parlare in maniera mio più libera. Dico, non dico che rincoglionisce, sono Nicoletti si incazza. Però può fare degli brutti scherzi, no? Cioè l'avanzare dell'età, anche col sottoscritto parlo, non solo per gli altri. Cioè uno è più libero anche di parlare, si sente più libero, non ha più nulla da perdere. Va in Sicilia perché è invitato a presentare il suo libro, va all'Università di Palermo, se non sbaglio, e dice che la Sicilia è un'isola di merda. Ma così ha detto. Certo, ha spiegato. La mancanza di legalità, doppie e triple file, che peraltro esistono anche in altri posti, non a Milano magari, ma certamente a Roma, Napoli, eccetera, eccetera. Ora non si sente una mazza di questo audio. A me quando non si sentono gli audio mi fa incazzare come una biscia. Perché però facciamo radio, no? L'Università di Palermo, cazzo, non poteva mandare un audio più fresco. Ma perché lo devi mandare? Questa è radio. Senti, non mi rimproverare, però siccome è un audio significativo. I collegamenti non si sentono. No, ma sono 8 secondi, state ben attenti, non si sente una mazza, però percepite. Ma se non si sente. No, devono stare. Ma come dire a un cieco attraverso la strada? Quello cieco, poverino. No, però gli ascoltatori devono stare attenti, che sono molto attenti a questi inizio. Ma sei un bel personaggio tu, anche. Aspetta. Non si sente la radio. No, non si sente bene. Si percepisce la parola isola di merda, riferito alla Sicilia. Non sai i siciliani, ho abitato. Il concetto fondamentale si capisce. Ho abitato per un periodo in Sicilia, un sacco di siciliani mi hanno detto: stasera devi martellare, Vecchioni. Ora, ragazzi, Vecchioni ovviamente non è il primo a parlare dei difetti della Sicilia. Ne parliamo noi, ne abbiamo parlato adesso della questione di Paternò, dell'Inchino, eccetera, eccetera. Cioè, è piena di difetti la Sicilia, è piena di porcherie, è piena di sprechi, eccetera, eccetera. Però adesso quando uno dice isola di merda, lui dice che è un'isola straordinaria che ovviamente non viene amministrata bene. Questo voleva dire. Certo, l'espressione. Il mare più bello del mondo. Il mare più bello del mondo. Hai tutto questo e tutto quello. Hai tutto questo e tutto quello? Non basta. Non va. Non basta. Non va. Sei un'isola di merda. Sei un'isola di merda. Ho tradotto, non ho, ho fatto la traduzione Becchioni italiano. Traffico veicolare. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Allora, a uso e consumo di chi ci ascolta, Vecchioni ha pronunciato queste parole. Sei un'isola di merda. In tutti i posti ci sono tre file di macchine in mezzo alla strada e si deve passare con una fatica tremenda. È inutile mascherarsi dietro il fatto che hai il mare più bello del mondo e che hai questo e quello. Non basta, sei un'isola di merda. Io amo, anzi non amo la Sicilia che non si difende, non amo la Sicilia che rovina la sua intelligenza e la sua cultura, che quando vado a vedere se l'inunte, se gesta, non c'è nessuno, non amo questa Sicilia che si butta via. Mi dà un fastidio tremendo che la Sicilia non sia all'altezza di se stessa, però ha utilizzato la parola Sicilia, isola di merda. Allora ragazzi, andiamo, 800 24 00 24, andiamo, Giulio, provincia di La Spezia, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Allora niente, io volevo solamente fare una breve, una brevissima precisazione. Io mi occupo di antropologia delle religioni e analisi del fondamentalismo islamico. Che ci vuoi dire alle 18:48? Dimmi. Oh, interessante, vedi che ogni tanto qualcuno sensato chiama, bene. Allora, volevo solamente molto velocemente fare una distinzione, perché c'è un po' di confusione generalizzata fra che cos'è il califfato e che cos'è l'ISIS. Sì, mi sembra completamente... Giulio, per carità, però francamente avremo molto bisogno di una grande trattazione qui alle 18:49, la divisione tra califfato e ISIS. No, aspetta un attimo, fermo. Siamo pronto? Avon? Chi parla? Buonasera, sono Cruciani, salve. Chi è? Sono Cruciani, Radio 24. La disturbo? Sì, mi disturba perché sto lavorando in casa. No, per carità, no. Volevo chiedere questa frase qui che lei ha pronunciato sulla... ha paragonato i simboli religiosi a quelli che vanno... Ma scusi, so a cosa si riferisce. Ho visto ieri sera la trasmissione. Sì. Allora, lei dovrebbe chiedere a Bosazzi, che è il direttore di quella... No, io ho sentito tutto. Ho sentito tutto. Voglio... Sì, no... con le domande anche, il direttore mi ha chiesto la connessione tra i fatti di Parigi e la, e la questione dei simboli religiosi. Sì. E la mia risposta testuale, come lei ha sentito, è stata che i simboli religiosi possono essere usati come armi da chi vuole creare conflitti. Quindi era una... No, ho capito, lei sostanzialmente ha paragonato i simboli religiosi a quelli che vanno con i Kalashnikov o con i mitra, come no? No, assolutamente no, detto che chi fa violenza, come hanno fatto in modo tremendo a Parigi, usando la religione come strumento di violenza, non lo devono fare. Se uno ma questo qua d'accordo. Poi il presepe, guardi, ce l'ho a casa, a scuola cantiamo i canti di Natale. Quindi c'è ma lei ha affiancato i simboli, l'utilizzo dei simboli religiosi ai Kalashnikov. Ma lei ascolta la frase. Adesso gliela faccio riascoltare, guardi, gliela faccio riascoltare. No, ma ce l'ho in testa perché l'ho sentita ieri sera. No, l'ha detta ieri sera. Sì, l'ho detta ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio. Ma un attimo, la riascoltiamo insieme, un attimo solo. Ma sto lavorando. Un attimo, le rubo tre minuti solo, ma è molto più breve l'audio, sentiamo. Io credo che i simboli siano anche possano diventare armi. E quindi se io tiro fuori il simbolo di qualsivoglia religione su questi aspetti per creare divisioni e conflitti, mi qualifico e non sono tanto distante da chi va col Kalashnikov in un teatro, se mi permette il paragone, perché sto dividendo. Se tiro fuori un simbolo significa che se tiro fuori un crocefisso, che ne so, faceva riferimento alla Lega, faceva riferimento ai politici, a che cosa? Allora, io le sto rispondendo cortesemente, perché non voglio essere maleducato, non so chi le ha dato il mio numero di telefono. Vabbè, noi facciamo i giornalisti, facciamo sì, il mestiere nostro. Sì, certo. Io le chiedo solo di ascoltare quello che ho detto, le parole che i simboli possono diventare se io faccio violenza attraverso i simboli, punto. Sì, però scusi professore, lei ha paragonato, non so, quando lei dice non sono molto diverso da uno che tira fuori un mitra, cioè è evidente che vuole mettere sullo stesso piano quelli che usano simboli religiosi. Bene, le sto dicendo che chi usa simboli religiosi per fare violenza, ma per fare divisione, lei ha detto, per creare divisione, sì, comunque, per fare, che è una cosa un po' diversa comunque. No, per creare conflitti fa un atto di violenza, questo è il mio concetto. Questo è sì, ma lei non può paragonare l'utilizzazione del simbolo religioso, che ne so, un crocefisso certo, tirato fuori o un presepe o una qualsiasi cosa. Ma figuri se penso questo. Ma ho capito, però dicendo solo che il mio pensiero espresso con quella frase era che l'utilizzo dei simboli. Ma cosa si riferiva? Perché, a cosa si riferiva in concreto? Perché lei non ha detto una cosa così folle. La mia scuola sta subendo delle violenze, capisce? Di che tipo? Io subisco delle telefonate anonime. Ma quando? Dopo aver detto questa cosa? No, in questi giorni che sui giornali appaiono queste cose, sui social ci sono delle minacce, io ho una famiglia, voglio dire, ma al di là della mia persona, è la mia scuola che sta subendo. Ma perché voi violenze. Che cosa avete fatto? Avete vietato il presepe, cose di questo tipo? Allora, noi abbiamo una carta dei servizi per cui le manifestazioni di carattere confessionale vanno fatte durante le ore di religione o fuori dall'orario, nulla più. Cioè nessuna manifestazione religiosa, diciamo... No, confessionale. Confessionale, vabbè, quello che è, sì. No, confessionale. Ma questo è sempre stato così dappertutto. Deciso dal Consiglio d'Istituto. Sì, però lei non può dire che brandire un simbolo religioso per dividere la stessa cosa dei Kalashnikov. Non ho detto questo, ho detto che i simboli possono essere usati in modo violento. E questo è inaccettabile, punto. È passato il messaggio. No, lei ha fatto il paragone evidente con i Kalashnikov. Non è molto diverso da quello che prendono i Kalashnikov. Se non avesse usato la parola Kalashnikov. Il mio pensiero, io le sto esprimendo il mio pensiero. Lei è libero di avere il suo, naturalmente. Ma no, questo viene interpretato in questo modo, glielo dico. Dispiace molto, le garantisco che mi dispiace molto. Non è il mio viene interpretato simboli religiosi uguale Kalashnikov. Sì, ma infatti questo è grave, perché non è vero. Non è il mio pensiero. Va bene. Magari gli è scappato in quel momento. Le sto dicendo qual è il mio pensiero. Vabbè. La devo salutare. Arrivederci. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo il giornale radio. Cioè tu credi veramente che intendesse questo? Ma dai. Sì, mi sembra di sì alla fine. Ma sì. dai. Gli è scappato magari un paragone ardito. Ma non ardito, si può però. Paragonare un simbolo religioso al Kalashnikov. No, dai, è l'uso su. Che se ne fa però. Dai, ma dai, ma non si può. È come se tu dicessi Salvini usa il crocefisso ed è la stessa cosa di quelli che portano il mitra a Parigi. Dai, ma è ridicolo. Beh, no, su. Ma Salvini usa ma il crocefisso per voi ragioni volete politiche. Dire questo e non avete il coraggio di dirlo fino in fondo. No, ma voi chi? Io ho detto fino in fondo. Tu e come? È questo professore un qua, uso di politico tuo amico di Trieste, questo professore. Ma qua. Mai visto prima, quale amico? Ti querelo per diffamazione aggravata. Oh ragazzi, caricate sto cazzo di podcast, perché io senza Zanzara sto in astinenza. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo Vatilix. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Sì, ma che palle però, e prima il traffico, e poi la borsa, e poi la pubblicità, e poi il telegiornale, oh! Ma noi vogliamo sentire la Zanzara, mica ste cazzate! Dalle 18.56 alle 19.18 io provo horror vacui. bothering you. It's a fact, you're just a drag. We ain't nearly finished with you. There's all this heat out of the beach, telling us we don't belong. It's gonna be a long, hot summer. It's gonna be a long, hot summer. A long, hot summer from now on. Eccoci qui, 800240024, l'altro numero magico per i vostri WhatsApp o quello che vi pare, 393, com'è? 393-71-71-701. Io direi di tornare con una rubrica che da un po' di tempo non sentiamo, caro Parenzo. Italia, paese di merda, che è sempre una delle rubriche più apprezzate. Solo che ogni tanto ci perdiamo, pure tu non produci, non fai una mazza. No, niente. Italia, paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Con la chitarra. Amici miei, siamo al Censis, che è un ente privato, per carità, però finanziato da un sacco di aziende pubbliche. L'anno scorso, che cosa abbiamo fatto? Ti ricordi una trasmissione epica in cui arrivare, certo, il signor De Rita aveva piazzato il figlio alla direzione generale? Piazzato. Uno mette chi gli pare. Piazzato il figlio come segretario generale. Che aveva un bel curriculum, però, devi dire, già in passato. Non pago di aver nominato il figlio Giorgio segretario generale. Non pago di aver nominato il figlio Giorgio come segretario generale. Il mitologico De Rita, che impedisce pure ai giornalisti di fare le domande su questa cosa, ma è stato pizzicato dal Fatto Quotidiano, ha piazzato al Censis anche il giovane Giulio, quartogenito. Collaboro con il Censis, dice, ma non sono un dipendente, e ci manca pure che sei dipendente. Cioè, attraverso una sua azienda ha preso un appaltino, una piccola commissioncina dal Censis. Sì, dal Censis, si fa tutto in famiglia, amico ma mio. Ma questo però, guarda, tutto veramente... Tutto in famiglia. Ma ragazzi, ma è indegna questa cosa qua, no, è una cosa ma indegna. Ma perché non te la prendi indegna con le famiglie di industriali che tengono giustamente i loro figli in azienda? Ma quello è diverso, dai, non è, perché non è la diverso? Stessa cosa, no. Quelle aziende private che hanno appalti col pubblico, ad esempio. Questa no, io su questo non ti posso seguire. Ma sai perché? E non ho mai conosciuto De Rita, quindi non me ne frega nulla di per sé della persona, che reputo un bravissimo sociologo, peraltro, il buon vecchio, il De Rita senior, diciamo, il junior manco lo conosco, il senior sì. Ma qual è il problema? Però ha sette figli, azienda magari li piazza privata. Tutti, magari li piazza tutti. Ma dai, scusami, su. E i figli di, che so io, di Benetton, di Barilla. Ma dai, di, l'abbiamo già fatta questa polemica, è una cosa senza appunto, senso. Te la rinfresco perché il tu stai rinfrescando una polemica inutile oggi. Il Censis prende un sacco di soldi dallo Stato ma direttamente. Ma che cosa dai, vuol dire su. Se i privati ritengono il figlio di De Rita abile a svolgere privati, quel lavoro? Quali privati? Dai, l'azienda su. È su. Ma questo non senza c'è nessuno scandalo. Senza il pubblico scandalo. Crolla tutto, la, senza i soldi dello Stato crolla ma tutto. Ma lo Stato glielo dà perché è un ente, come dire, molto qualificato. È ma molto dai, su. Ma, come, tutta, ma dai, ma su. Non, è, tu, mai, non mai. È il centro studi la Zanzara. Ah, quello no di certo, guarda. No, ma io mi vergognerei anche a prendere pensare... i soldi. Io mi vergognerei a prendere i soldi dallo perché Stato potremmo e a piazzare i miei parenti là dentro. No, io a piazzare i miei parenti, vergogna. Sarebbe da fondare il centro studi la Zanzara, presidente Riccardo Poli, vicepresidente Andrò Mercù. Poi mettiamo capo della ricerca, mettiamo vabbè. Cruciani, il fratello attore di Cruciani, vabbè. La sorella di Cruciani. Che male c'è, se funziona però il centro studi la Zanzara. Chiudi va la bene. Tira giù la Claire, rubrica, chiudiamo. E l'amo viola la domenica in TV. A proposito di animalisti e dintorni, cari amici, non mollo, mica sto lì, tutti quelli che mi dicono no, basta di parlare di conigli, eccetera, eccetera. Andiamo a ripescare una cosa prodotta dal signor Saverio Raimondo. Saverio Raimondo, che peraltro è stato fatto fuori dal dopo, sì, no, è stato fatto fuori dal dopo festival di Sanremo sul web perché ha utilizzato la parola squirting e perché ha parlato di aborto. Ti rendi conto come è messa la RAI, no? C'è la RAI per motivi di linguaggio, perché il signor Raimondo ha parlato di squirting e ha parlato di aborto sul web in quarta serata, in quinta serata la RAI, non è gradito alla nuova dirigenza RAI, ma lasciamo perdere, questo è un problema marginale. Saverio Raimondo e gli animalisti. Basta alla violenza sugli animali, basta violenza sugli animali! D'ora in avanti Sperimentiamo sugli animalisti, vivisezioniamo gli animalisti, testiamo farmaci e nuove cure sugli animalisti e vedrete che se sperimenteremo sugli animalisti la medicina farà passi da gigante, perché i test saranno molto più attendibili in quanto l'organismo di un animalista è molto simile a quello di un essere umano. Anche il cervello di un animalista, no? Avete presente? Il cervello di un animalista è molto simile a quello di un essere umano, perché pensa stronzate, che è esattamente quello che facciamo la maggior parte di noi. Basta violenza sugli animali, sperimentiamo sugli animalisti e vedrete che così la ricerca tornerà ad essere sostenuta. Troveremo un sacco di gente che sarà felice di investire, di finanziare la ricerca per vedere degli animalisti scuoiati uno ad uno per cercare una cura sul cancro che magari non la trovi, però intanto hai scuoiato un animalista. Vabbè ragazzi, andiamo a Livorno. Giulio, vai. Sì, pronto, ciao. Dimmi. Ho 22 anni e iniziavo subito col dire che sono neocatecumenale. Neocatecumenale. Neocatecumenale. Sì. Vabbè, oh, per carità, neocatecumenale, no, per carità, sì, ognuno. Cioè, mettevo subito il puntino sulle. Ci sono tante persone in Italia, vegani, sì, neocatecumenali. Sì. No, siccome respirariani, là, come diavolo si chiamano, quello che vuoi, cioè verduriani. Tu sei neocatecumenale, diverso. Sì, lo so, lo so. La mangi la carne? Sì, ma che ne so, magari. Non il venerdì, forse, ad esempio, no? Boh, no, penso che vedi. Non lo so, io so solo una cosa dei neocatecumenali, che fanno un sacco di figli, quello è. O sbaglio? Ma io ho 22 anni, sicché non te lo so ancora di. Però sei destinato a fare un sacco di figli, perché io so che i neocatecumenali fanno una fracassata di figli, 6, 7, 8, 10. Noi siamo in 4, ho due fratelli più piccoli e una sorella più grande. Sì. Vabbè, ma tuo padre è neocatecumenale, voi siete solo 4, tuo padre è neocatecumenale pure lui? Solo 4. Sì, insomma, mediamente, non proprio. No, ma scusa, come fai, uno, a quanti anni hai, scusa, mio amico mio? Io ho 22 anni. A 22 anni a diventare neocatecumenale, uno di solito diventa juventino, laziale, romanista. Anche un'altra cosa. Che ne so? Frequentatore di YouPorn, frequentatore di eccetera, dico, eccetera, diventa il calcio, che ne so, avante. Il calcio non lo posso vedere, anzi, a me piace da morire il rugby. Sì, ma uno può fare tutto nella vita, ma a 22 anni la scelta di diventare neocatecumenale, che poi spieghiamolo alla grande massa di persone che ci ascoltano, che cosa cazzo vuol dire neocatecumenale? Sì, ma infatti, cioè, questa cosa che sembra che sia chissà che. Non è niente di che, è semplicemente un gruppo all'interno della Chiesa Cattolica. Sì, vabbè, ma allora perché, no, fate, perché dovete fare tanti figli? Spiegami. No, non è una questione di fare tanti figli. Diciamo che c'è l'apertura alla vita, come accettare quello che è la volontà di Dio. Comunque non volevo parlare di queste stronzate, non, no, non che stronzate, cioè tu per esempio a 22 anni non è una per parlarne. No, ma ho capito, ma a 22 anni hai già fatto sesso per esempio? Beh sì, ma non è una persona moderna, non mi pare, lo ma non c'è la cosa, ma non c'è la cosa che tu, che ne so, che bisogna fare sesso solamente per procreare. No, vedi, la differenza fondamentale, che poi volevo dire anche a Parenzo, cioè il fatto che la religione cattolica non è questa. La differenza fondamentale, secondo me, rispetto all'Islam, che non è un insieme di precetti in cui uno è obbligato ad obbedire. Capito? Cioè, la differenza di questa gente che viene... Ah sì, vabbè, ma questo è chiaro, dai. No, è proprio quella la differenza, perché se te mi dici così, io ti dico sì, so cos'è giusto, anche a me piacerebbe trovare la donna della mia vita e sposarmi, sì. È chiaro che non siamo fatti anche solo di quello. No, comunque, mi incuriosisce il fatto che uno ha 22 anni, comunque, vabbè, dimmi, me l'hai detto tu, se mi dicevi... Sì, no, io ero partito, ho detto, sono neocatecumenale, che è giusto. Vabbè, potevi dire, anche non dirlo, io sono 22 anni. È mercenare alla zanzara, no, è giusto dirlo, sono fiero di essere, lo volevo dire, grazie tutto a Parenzo che lo offendono sempre e che invece mi fa schiantare dalle risate, li volevo dire, se se lo ricorda, l'altra settimana mi riascoltavo con i miei amici, quella volta che offese Scillipoti perché disse di essere presidente di qualcosa e rise per 10 minuti. Ascoltate, in biblioteca l'altro giorno con amici, io stavo piangendo dalle risate. Comunque, detto questo, volevo dirti, riguardo invece alla prostituzione, tutte le minchiate che dite dalla mattina alla sera, quello che ti volevo dire era semplicemente che al di là di tutto. Sì, sintetizza, amico mio, dai, forza, Giulio. Sì, hai ragione, non è facile. Cioè, il fatto è dipinto anche in questa trasmissione, però comunque in generale, è come una bestia che deve per forza. Ma chi l'ha detto? Per forza soddisfare. Dalla gente che chiama e dice figa, figa, la mattina sera, io ho 22 anni, non ho problemi di bimbe. Però non penso che sia l'osa fondamentale dalla mattina alla sera. Quindi anche questa cosa della prostituzione come un pallino fisso fino alla fine, con gente che chiama, eccetera, eccetera, persone potrebbero essere tutti i miei babbi, nel senso, hanno quelle età lì. E allora? Volevo, cioè, ti fa schifo l'idea che la gente vada a puttane, questa è la realtà. Cioè, ti fa schifo. Magari per del sesso, non è che ti fa schifo quelli che quelli ossessionati dal sesso. Un po' ha ragione, però. Non certo. Lo capisco. Cioè, non, vabbè, perché non lo capisci, amico mio? Ho capito, 22 anni, se non lo capisci io, gente di 22 anni che pensa solo alla figa la mattina alla sera. Vabbè, ma quello che c'entra? Ma è abbastanza normale, tra l'altro. Ma anche lui magari ci pensa, anche Giulio, ma non è un pervertito miserabile come quelli che vanno a prostitute. Una battuta di ieri sera di Vittorio Feltri, mi sembra Virus, che disse, quando aveva detto che c'erano 40 vergini nel paradiso dei musulmani, disse, ma di questi tempi è difficile trovarne, nel senso, le donne non è più come 50 anni fa, penso io, non è che devi basta andare in discoteca e una che ci sta la trovi, cioè, non mi sembra sia quello il problema di andare a pagare una persona solo per andarci a far sesso e usare la donna. Ragazzi, ma ho capito, ma ognuno sceglie. C'è gente che si eccita a pagare. C'è gente che si eccita per il fatto di pagare qualcuno e di non avere problemi di rottura di coglioni. Vabbè, fermo lì, fermo. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Invesco. Per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Zanzara, Uakbar, Zanzara, Uakbar. Hello, andate al bar. Hello, andate al bar. Well, I'm just out of school. Comunque, David, come riesci a far passare in cavalleria il fatto che Derita al Censis abbia trovato posto anche al secondo figlio? Trovato posto, in realtà fa un lavoro per il Censis. Dai, non su, il quarto genito, ricercatore Censis che tramite una società ha ottenuto appalti proprio dall'istituto presieduto dal padre. È dai, un istituto privato. Non è un istituto privato. È un istituto privato che ha commesse col pubblico. Mi dici qual è lo scandalo? No, cioè io sono il primo a puntare il dito contro sbagliato. Le assunzioni della pubblica amministrazione di raccomandati. Sono il primo, ma in questo caso non si può montare uno scandalo perché ti sta sui coglioni di Rita, perché quelli non a te metaforicamente, non a te come persona. Cioè quelli che stanno tirando fuori una polemica su questa roba, in realtà dimenticano di dire, ripeto, che è un istituto privato. Ma a parte che non è totalmente privato, come dici tu, non è totalmente privato. Poi c'è Donato Lavarese, privato, senza controllo sanitario. Cioè, essendo privato, uno fa quello che gli pare, se i suoi soci. No, vabbè, non è così. No, avanti, ma allora non continuiamo privato. A discutere di una. Togliamo i dati di fatto. Il fatto che abbia delle commesse col pubblico, cosa non c'entra? Non è solo commesse col pubblico, e non allora è solo questo. Cioè, se non ci fosse il pubblico non esisterebbe, dai, su. Ma il pubblico è a partecipazione pubblica, dai, è su, il più ragazzi, importante istituto. Fate le belle ricerche o no? Sì ma o no? Ma che cosa me ne frega? A me non è quello il mio, non è quello il punto, dai. E qual è il punto? Il punto è che sostanzialmente è un istituto parapubblico in cui c'è un signore che mette tutta la sua famiglia dentro. Dai, se non è uno scandalo questo, io non so che cosa possa essere lo scandalo. Quando c'è di mezzo il pubblico. Ma c'è di mezzo, come no? Ma sono le commesse che lo Stato dà con gare a queste robe. A parte che il Censis è riconosciuto in Italia da sempre come un istituto. Dai, su. Vabbè. Allora, ragazzi, andiamo a Lecco. Davide. Davide. Davide. Davide. Gianluca Novara, dai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Ascolta, io sono d'accordo con te al 99% sui conigli, sulle mignotte, sull'Islam, su chi spara in casa i ladri, sui Rom, su tutto quello che vuoi. Sui neocatecume anali, sì? Scusa, beh, neo gatto comunali, sì, scusami. Sì, anche su quelli. Sì. Però ascolta, stasera col preside mi è salita la vena. Perché? La pinchia, sai quando ti sale la... Ah, perché secondo me lo stavi un po' coglionando. Beh, cioè, no, cercavo di capire che cosa aveva detto, scusami, Però lui, cioè, poi anche quando l'hai riascoltata con lui la frase, allora lui dice, innanzitutto qualsiasi, lui dice simboli di qualsiasi religione, quindi non stava dicendo il presepe o la croce, cioè i simboli di qualsiasi religione, e in più diceva, se tu questi simboli li prendi e li vuoi usare per dividere, allora ti qualifichi, e in questo caso secondo me ti qualifichi come quello scemo. Ragazzi, ha messo sullo stesso piano i simboli, e si parlava chiaramente di simboli religiosi cattolici in quel contesto lì, la discussione sul crocefisso, sul presepe di questi giorni, perché lì c'era un grande presepe dietro lo studio televisivo, e quei simboli però, lì e i Kalashnikov, qualsiasi paragone è ridicolo, dai. Ho capito, però lui dice, se tu il presepe lo vuoi prendere, vuoi fare quello che dice, il presepe, la tradizione, tu islamico di merda, non venire qui a togliermelo, a rompermi i coglioni, una cosa e l'altra, e lo fai con tono polemico, sì, magari ci sta che il paragone è forte col Kalashnikov, però in effetti tu stai usando il presepe come piede di porco per entrare dentro e fare un'azione. Vabbè, Davide, ho capito, Marcello da Mantova, dai. Comunque, per tua informazione, Parenzo, nel 73, grazie alla partecipazione di alcuni enti pubblici e privati, è diventata una fondazione riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica. Beh, e qui che vuol dire? No, ma grazie alla partecipazione di alcuni enti pubblici e privati. Va bene, ma non cambia la sostanza dell'efficacia. C'è il pubblico dentro, ha messo i figli, basta, ma Marcello da Mantova. Ma non cambia la sostanza fatto ma che... se ti piace una società fatta così, in cui per nepotismo quello mette i figli dentro, ma sono affari tuoi. Non dici nulla delle grandi aziende, ma quelle sono in quelle grandi marchi italiani che sono per la maggior parte sono due cose diverse. Da generazioni, da imprenditori. Stai paragonando due cose assurde. Questa non è un'impresa, no. Quella là, dai. E cos'è? Marcello da Mantova. E come non è un'impresa? No, una fondazione riconosciuta a suo modo, impresa della conoscenza. Fondazione riconosciuta da. È un'impresa, cioè è un Marcello luogo che da crea lavoro, no? Dai, su, ragazzi, è uno scandalo. No, dai. Non è un'impresa adesso. Le imprese cognitive non sono imprese? Cognitive, dai. Imprese non posso... cognitive. Certo. Marcello da Mantova, dai. Imprese cognitive. Marcello da Mantova. Allora, niente, volevo dire, d'accordo con l'albero, il presepe, il Natale da festeggiare, però basta con queste processioni, basta con queste via crucis. Ma non è una questione soltanto siciliana, in tutta Italia ancora avvengono queste manifestazioni, ormai come hai detto tu, medievali, basta. Basta, non è che lo possiamo decidere noi, io dico semplicemente che per me è una follia, cioè è una cosa all'antica, dobbiamo evolverci, dobbiamo guardare avanti. I carri con la Madonna sopra, la gente in processione che prega, ma di che parliamo? Dai, su. Ti volevo raccontare questo piccolo episodio. Io chiamo da Mantova, ma come si sentirà sono di Napoli. Pensa che io sono arrivato all'odio nei confronti di queste manifestazioni, perché quando ero ragazzo tutte le domeniche mattina venivo svegliato da questi carri con la Madonna dell'Arco che urlavano alle 9 di mattina per ricevere le offerte da parte della gente che dai balconi lanciava sulle monetine. Cioè una cosa pazzesca. E allora? Niente, comunque sono con te anche per quanto riguarda i cani e i conigli. Viva Cruciani, arrivederci. Vabbè, ciao Marcello, ciao. Signore, a proposito di nuovo della vicenda dei conigli, eccetera, eccetera, che ci ha impegnato tutta la settimana, caro Parenzo. Un signore che mi ha dato del bastardo, oltre a minacce di morte, eccetera, eccetera, del bastardo del pezzo di merda. Un tale che si chiama. Novità? No, assolutamente non c'è nessuna novità. Ah. Però sarei curioso di sentire la sua voce, vediamo un po' se riusciamo a beccarlo. Si chiama credo Niedu, è un sardo, pare, ho letto qua e là, un vegano. Sì, Niedu. Sì. Mirko? Sì. Sono il pezzo di merda. Beh, questo è vero. Pronto? Sì, sono il pezzo di merda bastardo. Quindi chi sei? No, sono il pezzo di merda bastardo, quello che hai chiamato pezzo di merda bastardo. Quello che mostra gli animali. Bravo, sì, sono io. Pezzo, siccome mi hai detto pezzo di merda bastardo, adesso voglio vedere se me lo ripeti. Ma per me sei un pezzo di merda. Ah, sono un pezzo di merda. Perché sarei un pezzo di merda? Perché non esiste quello che fai. Non esiste che porti dei poveri animali sfidando la gente così, non esiste. No, è non esiste. È vergogna quello che e perché dovrei essere un pezzo di merda? Al di là del fatto che tu pensi che sia una vergogna, pezzo di merda, perché pezzo di merda? Spiega, ma no, ma tecnicamente perché? Perché tu porti degli animali così e sfidi questa gente qua, sono povere creature senzienti. Povere creature senzienti, vabbè, sì. Tu sei convinto che sono come gli esseri umani, cioè io valgo meno di questi. Sei tu che dai meno valore alla loro vita. Beh, insomma, su questo non c'è dubbio, che secondo me gli animali, per carità, vanno rispettati, ma valgono di meno degli esseri umani, su questo non c'è dubbio. Ma perché? Chi l'ha stabilito? Per quale motivo? Ma non è, ma è normale, è così, è così, perché? Non c'è manco bisogno di discutere, ma non per questo bisogna distruggerli, bisogna torturarli, bisogna maltrattarli, cioè. Ma che se, ma se io me lo mangio, se io mi mangio un animale, che cosa sono, un assassino? Per me sì, per me è un assassino. È un assassino. Sì. Ma scusami un attimo, che senso ha quello che hai fatto? Che ma senso ha? C'è una campagna della LAV per eliminare il coniglio dalla tavola degli italiani. Io sono invece a favore del coniglio mangiato, oltre che del coniglio vivo, ovviamente. Voglio continuare a mangiarmi il coniglio. Permetti? O no? Per me puoi farlo, però posso esprimere la mia opinione. No, no, però siccome mi hai dato il pezzo di merda del bastardo. Ma minchia, stai telefonando a mezza Italia allora. Questa è buona. Questa è buono, eh? Questa è buona, però. Questa è brava. Questa è buona. No, mezza Italia no. Mezza Italia no. Però scusi, professore, se la sua casa dovesse, Dio non voglia, essere invasa da topi. Beh, lei che fa coi topi? Che fa coi topi? Ma io non sono professore. No, ma che fa coi topi? Che fa coi topi, però, se dovesse, Dio non voglia, essere invasa da topi? Li allontano. Come? Ma come? Scusi, signor topo, può uscire dalla casa? Cosa fa? Li catturo e li allontano. Ah, li catturi e li allontano. Li cattura vivi. Ma dai, su, ma non si può. E le zanzare? Le zanzare, io non ammazzo animali. Ah, non ammazzi nemmeno le zanzare? No. Te ti lasci divorare dalle zanzare? Ma le zanzare non mi divorano. Ah, non ti divorano perché sei vegano? Perché magari sei vegetariano o vegano? Dai, sono su. Vegano, sì, esatto. E vabbè, ma dai, non è possibile questa cosa qua. Cioè, non uccidi nemmeno una zanzara? Non uccido le zanzare. Per cui, tra la zanzara e un uomo non c'è differenza. A livello di etica e di rispetto, merita rispetto tanto la zanzara, quanto un elefante, quanto un uomo. Dov'è la cosa strana? Ma non è una cosa strana, no, per carità. Poi dov'è uno può pensare pure di vivere a Vegania. Va a dimensione? Vai a vivere a Vegania, va bene, è un mondo stupendo, Vegania, un mondo ideale. Sarà bello il mondo dove tu accarezzi il tuo cane e poi ti mangi un coniglio. È normale questo? No, sì, io abbastanza normale, penso che sia normale, sì. Per penso. Me no. Penso che sia normale. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. La zanzara. Ma come ti piace parlare di sesso a te? Io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta. Ma io lo vedo. Parenzo, l'ho incontrato l'altra sera a Tiki Taka, un personaggio straordinario, un personaggio vero, soprattutto un personaggio vero, sanguigno, possiamo dire così, possiamo dire così. Auriemma, ma che c'entra, certo. Auriemma, non lo so. Ma c'entra Auriemma, Auriemma è incazzatissimo con Mentana, sta facendo l'ira di anche Dio, anche con te credo. No, con me no, come? Con me io no, ho visto me. Il filmato, sì, combattiamo, ma con me no, soprattutto con Mentana che l'ha trattato. Gli detto, se vuole se ne vada a casa, gli hai detto. Ma sì, Auriemma, sì, d'accordo, detto, però no, ma ce l'ha soprattutto con Mentana. Ce l'ha soprattutto con Mentana perché Mentana un po' l'ha bistrattato, l'ha considerato uno di serie B. Ha fatto battaglia. No, dai. L'ha considerato uno di serie B, così. L'ha considerato uno, un pezzente mentre lui, capito, il no, direttore. No, un buffone, un pagliaccio, una maschera. Mi dici poco, mi dici poco. No, mi dici un buffone, un pagliaccio, comunque, una maschera. Ma a me non mi interessavano. L'altra sera ero concentrato solo su un personaggio. Cioè non ce n'erano altri per me. Cioè il numero uno assoluto è un attore molto bravo, in persona sempre soprattutto dei mafiosi, soprattutto dei mafiosi. Come no. Si chiama Tony Sperandeo. Caro Tony, come stai? Buonasera, ma io ti devo contraddire, Giuseppe. Cosa? Io non impersono soltanto mafioso, lo io so. Impersono anche, ho fatto il prete anche tre volte. Il prete? Sì, tre volte, Marco Dici nel Continente Nero. Poi ho fatto con Pelaccioni, la moglie bellissima, ho fatto un prete. E soprattutto, soprattutto mafioso, soprattutto mafioso. Comunque, che hai fatto pure il prete? Quante volte l'hai fatto il prete? Tre volte l'ho fatto il prete. E in che panni? Come ti sei trovato a fare il prete? A me piace, mia madre mi ha inculcato le cose del cose che mi piace. Poi anche perché mi piace confrontarmi con altri personaggi, perché su cazzo mi fanno fare sempre o il mafioso o il poliziotto, mi sono rotto. Ti sei rotto i coglioni di questa cosa qua, eh? Basta. No, allora, io, perché mi avete chiamato? Allora, io Tony, ti ho chiamato. Io sai che ha detto Vecchioni, no? Sai che ha detto Vecchioni? No, oggi. Non lo sapevo, ma l'ha detto il tuo amico. Sì, mio assistente, sì. Allora, che cos'è la sostanza? Vecchioni ha detto assistente. Sì, una persona che lavora con noi in redazione, come lo devo chiamare? Il mio assistente. Vabbè, Parenzo, che lo devo chiamare? Ma è uguale, su, Parenzo fa sempre così, Tony, dai. Allora, Vecchioni ha detto andiamo a sottolineare, parliamo di Vecchioni. Parliamo di Vecchioni, che ha detto sì. Che lì, la Sicilia è un'isola di merda. Come lì è un'isola di merda? Allora, è un'isola di merda. Io, allora, Vecchioni. Sì. Il grande Vecchioni, che è vecchio già di nome, no? Sì, sì. Perché mi ho vinto un festival allora. Allora, Vecchioni, che è un milanese, tu facevi l'Inter, presumo che sia milanese. Milanese, sì, milanese. Sì. Allora, non deve parlare così, sì, non deve parlare, perché allora, io che sono siciliano, se devo dire qualcosa sulla Sicilia, devo essere io a parlare, andare a disquisire sui siciliani. Dico, che cazzo c'entra? Non l'ho capito. Cioè, perché si permette? Io ti dico sì. Che lui... la Sicilia, insomma, birichini, perché votano per tutti quei personaggi e poi vanno al potere, vanno a Montecitorio e poi se ne stanno portando la Sicilia. Questo è quello che io... Sì, no, lui dice una cosa, guarda. Sì, che dice? Posteggi? Sì, lui dice che ci sono macchine in seconda, terza, quarta fila. E quindi la Sicilia è una zona di merda perché posteggiano male, perché a Milano non posteggiano in terza fila. Che mica dice Vecchio? Non penso che sia questo. No, ma questo, ti giuro, ha detto questo, principalmente ha detto questo, poi ha detto anche che lì... La Sicilia si butta via, la Sicilia si butta via. La Sicilia si butta via, sono d'accordo, nel senso che noi siciliani potremmo avere di più, potremmo ottenere di più. Io chiuderei le frontiere, noi abbiamo il petrolio, la pastorizia, abbiamo tutto. Ma come chiuderesti le frontiere? Tu sei indipendentista dalla Sicilia? Allora, se noi dobbiamo votare delle persone che se ne stanno fottendo in Italia, non sono d'accordo, perché non capisco per quale motivo noi dobbiamo avere soltanto la Palermo-Messina come autostrada, Messina-Catania, che pure è sdirubata, invece sdirubata significa tutta malagommenata, dove invece dal nord c'è Pescia, Pavia, Piacenza, Torino, Genova, Milano, tutte autostrade, tutte interstate e non abbiamo un cazzo. E allora quelli che vanno al potere dovrebbero trattare meglio la Sicilia. Cioè dici la colpa alla fine dei disastri della Sicilia. Ma Vecchioni non c'entra niente, Vecchioni non si deve lamentare, Vecchioni deve ringraziare a Dio che sta a Milano e ci sono di fango e se fosse a Vema e vince. Per il resto non si deve permettere di andare a sindacare sulla mia terra, altrimenti io mi incavolo e non voglio offendere, perché no, fai pure, per carità, no, non c'è problema. No, è un vecchio, un uomo vecchio che non dimostra, ha dimostrato. Ci vuoi mandare qualche picciotto? Ci vuoi mandare qualche picciotto a Vecchioni? No, io sono contro i mafiosi, figurati. No, beh, quello no, ci mancherebbe. Però si deve vergognare da solo, perché non è giusto dire questa cosa. No, ma più che altro l'espressione, uno può anche dire delle cose negative sulla Sicilia. Ma perché detto, non credo che lui possa aver detto per fatto di parcheggi. Ma no, poi adesso ti ripeto, ti recupero le dichiarazioni, ma ti assicuro che è partito da quello, vedo in giro macchine parcheggiate in seconda, terza, quarta fila. La Sicilia aveva identificato che era una terra di merda, vabbè. Ma perché uno si deve offendere? Io veramente non capisco. Cioè, se qualcuno facesse una critica sul Veneto dove sono cresciuto, non è che io il mio orgoglio veneto viene ferito. Ma che c'è? Se uno dice la Sicilia è un'isola di merda, capisco. Che vuol dire? Dai, uno vabbè, si può pure incazzare. Capito, però, ma Sperandio è una persona che tiene la sua terra e si incazza, va bene, giusto? Ma sarà in grado Sperandio di... No, Sperandio. Non mi chiamo Sperandio o... Minchia, fa da poesano, dai. No, Sperandio, no. Sarà in grado Sperandio, sperando in Dio che riconosca... Però l'autostrada in Sicilia non si paga, eh? Appunto, devi conoscere alcuni difettucci. Non è tutta questa roba, come hai detto, sarà in grado Sperandio di che cosa? Che hai detto, Parenzo? Sarà in grado di... ho detto Sperandio. Sarà in grado di riconoscere che alcune cosucce non vanno? No, oppure... molte cose. Ma lo possono fare soltanto i siciliani o lo può fare anche un milanese interista? Perché anche mi pare un milanese che... interista perché c'è in seconda fila, anche a Bologna. Io sono un uomo di mondo che ha fatto tanti anni e vado ovunque, c'è una sporcizia ovunque, c'è le macchine in quarta fila e non c'è educazione. Se pensano che manco saluto, che minchia dice vecchio brodo sarde, come cazzo si chiama? Allora, aspetta, Tony, scusa, allora aggiungo queste cose qua. In tutti i posti ci sono tre file, in Sicilia ci sono tre file di macchine in mezzo alla strada, e si deve passare con una fatica tremenda. È inutile mascherare, no, in tutti i posti, dice in tutta la Sicilia, non dico in tutti i posti d'Italia, in Sicilia. È inutile mascherarsi dietro il fatto che hai il mare più bello del mondo e che hai questo e quello. Non basta, sei un'isola. Il mare più bello del mondo, che poi non è vero nemmeno. Non è vero nemmeno. Dice non basta. La Sicilia è una terra bellissima. Dice non basta, sei un'isola di merda. Così ha concluso. Tu devi dire a Vecchioni che non deve offendere questa grande puttana che è la Sicilia. Perché puttana? Perché la Sicilia è stata sempre incappettata da tutti, da turchi, saraceni, arabi, italiani. Tutto è stato sempre un porto di mare, però è una grande culla di civiltà. Soltanto per chi la mette in discussione? E allora, Vecchioni, che minchia ne sa della Sicilia? Ma nessuno mette in discussione nulla della Sicilia. Però i difetti li dobbiamo riconoscere noi. Noi, Ido, che arriva e parla dalla terza fila, si va a guardare la sua terra, e non vado a offendere gente che la ospita. Che la Sicilia è una grande terra, che siamo ospitali. Allora, noi siamo dei Gattopardi, e Vecchione è un vecchio. Punto. Un attimo solo, Tony, che riprendo dopo la pubblicità. Fermo lì, che ti devo chiedere dei zamparini, un altro po' di cose, e quello fa l'inferno, aspetta. Lo sai che c'è? Non ce la faccio più. La Zanzara. Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Ma proprio dicendo adesso con la mia fidanzata qui in Irlanda, che ogni volta che torniamo in Italia mia madre mi fa sempre il coniglio, quindi... Happy Rabbit! La merda dei signori vegani non puzza, e allora io vegano non diventerò mai, perché quanto mi piace il puzzo della mia merda, ci starei a ore. Cruciani, viviamo in un mondo in cui uno si mangia un coniglio e viene preso a sprangate in faccia da 100.000 persone, poi chiama il primo stronzo che dice che le donne hanno il cervello più piccolo e nessuno dice un cazzo, ma vaffanculo. Che poi per sti cazzo dei vegani noi ci dovremmo mangiare tutti la soia, ma nessuno di loro dice che la soia è la prima causa di deforestazione dell'Amazzonia. Viva il coniglio, Crucià. Invece di andare a filmare, lavate, asciugate e tagliate a pezzi il coniglio. Oppure compratelo già diviso in parti, mettetelo in una ciotola con il pepe, i chiodi di garofano, le carote pelate e tagliate a rondelle, la cipolla, il sedano tritati e le foglie d'alloro. Ripeto, ciotola con il pepe, chiodi di garofano, carote pelate e tagliate a rondelle, cipolla e sedano tritati e le foglie d'alloro. Poi coprite con il vino rosso, mescolate bene, fate marinare il tutto per una notte in frigo. Per una notte in frigo. Addirittura. Sì, sì. Sgocciolate il coniglio. Ecco, sei uno sgocciolate. Sei cracco? Cosa sei? Non hai idea. La gente che mi ha mandato ricette in questa settimana. Ma una mano dicendo: forza, vai avanti, buffone. Vai avanti su che cosa? Vai avanti con questa grande battaglia di civiltà. Tenere il coniglio sulla nostra tavola. Sgocciolate il coniglio e asciugatelo bene con della carta da cucina. Poi rosolatelo in una padella con il burro. No, la carta, vedi, qui sbagliano. Ci vogliono gli strofinacci, quelli. Perché la carta gli lascia i pezzettini di carta attaccati. No, è tu ad aggiungendo questa cosa, no? Ah, ci vuole. Poi rosolatelo in una padella con il burro, regolate di sale, unite la marinata filtrata e continuate la cottura a fiamma bassa per un paio d'ore. Questa è una ricetta molto elaborata del coniglio, una notte a marinare. Comunque, ragazzi, questo è. Io voglio che questa roba qui continui. Siamo con il mitologico Tony Sperandeo, attore. Sì, Tony, guarda, quando tu facevi. Qualcuno mi ha ricordato, tra l'altro, Tony, che tu. No, mi ha ricordato adesso nei messaggi che tu, durante nel film I 100 Passi, hai detto una cosa. Nei 100 Passi. Sì, ho detto una cosa. Il nulla mischiato. Sì, no, hai detto. Com'era la cosa? Diceva Peppino in base perché tu non ci sei, tu non esisti, tu sei nudo, un mascato con niente. Potrebbe essere applicata anche al signor Vecchioni questa cosa qua. No, Vecchioni io non lo so perché possa aver detto, perché se dice una cosa soltanto per il fatto seconda terza fila è una cosa molto deduttiva, io non credo, dai. Guarda, ti giuro, poi ha detto un'altra cosa, aspetta, ha detto io non amo la Sicilia che non si difende, non amo la Sicilia che rovina la sua... Io sono uno che mi difendo, che difendo la Sicilia e mi so difendere da solo e mi difendo la Sicilia, quindi lui mi dovrebbe amare. Lui non deve toccare la mia testa. Non amo la Sicilia che rovina la sua intelligenza e la sua cultura, le forze di Vecchioni sono non amo la Sicilia, io la amo e non me la deve toccare, perché io non vado a toccare la Lombardia, tanto il dispetto. Senti, quando vado a vedere a parte che sono metà siciliani e quando vado a vedere se l'Inunte se gesta non c'è nessuno. Dice non c'è nessuno, non amo questa. Sì, dice che non c'è nessuno. Perché non c'è nessuno? Ma dice pochi turisti. Perché vuol dire che questi templi, queste cose antiche, non sono gestiti bene. Esatto, quello vuole dire. Sì, ma manco straniere ci sono. I templi ci sono, se la gente non ci va, che è colpa della cultura. Sono amministrati anche male, Tony. Io poco fa sentivo. L'ho capito, se sono messa di male non è che è colpa mia o colpa tua, se è la colpa di quei politici che noi siciliani andiamo a votare, questo sbaglia la Sicilia, che noi votiamo per delle persone che poi vadivano a Parlamento. Ma questo è lo specchio della civiltà, della gente, però non dipende con noi il popolo di Mortale. Insomma, i forestali, chi li ha creati il numero di forestali? I siciliani, dai. Ma dice lei parlate sempre la Sicilia, con ci fosse sulla mafia, infatti poco fa la battutaccia, ti mando qualche picciotto. No. La Sicilia non è la mafia. Ma la mafia esiste ancora? Esiste ancora la mafia o no? Secondo me sì, ma la mafia è la mentalità, perché se tu c'è un picciriddo che non vuole andare a scuola, suo padre ci dice, vabbè, tanto c'ho il trotto che ti fa travagliare. E che? Tanto c'è lo trotto che ti farà lavorare. Sì. Bisogna sconfiggere questa mentalità. Travagliare vuol dire lavorare. Travagliare. Come faticare a Napoli. Esatto, faticare, vabbè. Invece sentivo la pubblicità sui vegani. Sì, sì. Allora io sono la mia fidanzata che è vegana. Sì, ma quanti anni ha la tua fidanzata? Scusa, amico mio. Perché ti interessa, scusa? Ma no, ma così per dire. Questo su questo si inalbera. Dai, dimmi quanti anni ha. 49. E tu quanti anni hai? Madonna. Io ne ho 60, sono un uomo senza età. No, ti volevo dire, io ho saputo, me lo diceva Barbara, che ci sono delle polemiche con questa Marta Amattani. La vegana, ti do uno scoop. Dammi uno scoop. Questa qua ha fatto una cosa con me anni fa. Daniela Martani, sì, che mi rompe i coglioni. Pensa che tutti quelli che mangiano la carne sono assassini. Ha fatto una cosa, un dolce. È un mediometraggio del giro di Salvatore Arimatea. Sì. Ma a quei tempi, se non sbaglio, mi pare che mangiava l'arancina con la carne. Io non vorrei sbagliare, però un'era vegana non lo so. Ma no, tu lo sai, me lo stai dicendo tu. Mi informerò, perché non mi ricordo dove siamo andati a mangiare. No, faceva la hostess all'Italia. Allora, poi fece un grande fratello, una cazzola, poi ho fatto la fattoria, dovevo fare pure io, e non me l'hanno fatto fare più perché le piegai con Corona. Perché Corona se ne spontano delle cose, quindi vabbè, a prescindere, ma Martina ha fatto una cosa con me. Parliamo in Zamparini, che è meglio, altrimenti come scappa dalla Martani. No, la mafia, dimmi una cosa sulla mafia, ma secondo te, e poi parliamo di Zamparini, ma tu che hai fatto sempre queste parti, spesso queste parti qui adesso non le vuoi più fare, che dici basta, mi sono rotto i coglioni. No, io no, non le voglio più fare. Se mi chiedo a fare un film mafioso, lo faccio, tanto l'importante che nella vita non sono mafioso e sono contro la mafia. Vabbè, ma certo. Ma c'è una cosa positiva che ha fatto la mafia, secondo te? Che ha rappresentato la mafia o no? No, no. Assolutamente no. No. C'è lo Stato che ha fatto una cosa positiva? Beh, sì, tante. Lo Stato è a livello della mafia, dice lo Stato spesso. No. Qualcuno dice la mafia è dentro lo Stato. Lo Stato dovrebbe rappresentare la legalità. Però io ti dico, allora ti porto un esempio, se mi consenti due minuti, così svirgolo. Io ho scritto una sceneggiatura e non mi hanno mai fatta fare, questo per dimostrarti contro sogni antimafia. Ci sono delle cose che la Costituzione italiana bisognerebbe descrivere, perché se ci sono dei poliziotti, perché ho fatto per 7 anni il poliziotto a Napoli facendo la squadra, infatti il carabinieri, se ci sono dei poliziotti che rischiano la vita e possono rischiare di lasciare orfani i figli o vedove le mogli, e poi alla fine devo combattere contro dei mafiosi che vengono arrestati e poi ci fanno come si chiama quella cosa di Che cosa? Come si chiama quel termine? Il 41 bis, che cosa? No, un termine che poi vengono rilasciati. E poi li scarcerano, vabbè, poi li scarcerano. Allora, secondo te è una costituzione da descrivere. A me lo dici. Uno resiste la vita, resiste la vita e poi alla fine che tu con cosa decodenza di te, a me perché se ne escono. Allora, no, ma figurati. Allora, ma tu sei a favore, tu sei a favore del 41 bis, sì, dei mafiosi, a voglia. Sì. Ma io non so che cos'è il 41 bis, io sono... Il carcere duro. Io sono a favore di uno Stato che sia più forte della mafia. E la pena di morte con i mafiosi? Per i mafiosi? No, la pena di morte sono cattolico, non l'accetto. Però hanno fatto l'inchino, visto che hanno fatto l'inchino a Paternò ieri, hanno fatto la processione di Santa Barbara, no. Non so che cazzo è, hanno fatto il solito inchino al boss mafioso di quelle parti là, capito? Queste cose in Sicilia ancora ci sono, però Tony, l'inchino al boss mafioso, dai. Solo ci sono, vabbè. Però possiamo andare a prendere senti visitare. Ma che cazzo mi combina sto Zamperini, vuole cacciare mezza squadra, cioè, fa bene allora, o fa male? Allora io non posso tanto parlare, però certe volte svisgola. Io sono abituato, lo stadio La Favorita, adesso si chiama Barbera. Sì. Io ho avuto il piacere di conoscere Barbera. Vabbè, adesso Barbera. Andiamo. La Barbera, certo. No, fammi finire. Sì, no, Barbera. Barbera, vabbè, allora? Barbera, fallo stare zitta che dobbiamo. che Barbera, che io l'ho conosciuto, era un grande gattopardo, però non aveva i mezzi di Zamparini. Però nonostante ciò faceva B, C, C, B, A. Poi è morto, il Palermo è stato cancellato. Quando c'è Zamparini, il Palermo ha fatto 10 anni di Serie A, un anno è in Serie B e siamo ritornati, già sono 2 anni che ritornati. Vabbè, ma... Quindi io non posso parlare tanto male, che sia padrone sì, ma non posso parlare tanto male. Non capisco, e io lo dico al presidente amico mio Maurizio, io dico, se tu togli Iachini e prendi Ballardini perché ti lamenti che il gioco non c'è e quindi anche la partita che hai vinto con il Verona, col Chievo Verona e Palermo meritava di perdere, fino adesso io gioco di Ballardini non ne hai visto. Se tu, vabbè, se ma questo è il gioco, salva, ma adesso con questa Palermo cosa qui salva, dell'altro giorno, questa sconfitta finire, dell'altro giorno. Fammi finire, usaccio dove va a parare. Se il Palermo si salva ha fatto bene, se il Palermo non si salva ha sbagliato tutto. Vabbè, questa sconfitta dell'altro giorno già si comincia a sentire che forse di torno agli Iachini. Sì, sì. Ma allora voi dovete ringraziare che c'è un presidente che stipende a tutti gli allenatori d'Italia e d'intorno, li paga Zamparini. Lui, cioè il calcio, la FIFA è lui. E poi dico, a proposito di FIFA, ti dico un'altra cosa. Dimmi. Che abbiamo, io l'altro giorno volevo dire, il giubileo che dovrebbe cominciare il giorno 8, Upapa. L'ha cominciato prima Stravecchio, come Tavecchio, Stravecchio, come si chiama? Tavecchio, chiamo io. No, per carità, che è successo con Tavecchio adesso? Dimmi. Perché che è successo? No, tutti dimmi. I calciatori stranieri, tutti i calciatori, un giubileo non vedendo tutta questa massa di stranieri per la Porta Santa, giorno 8, sì. Tutti questi stranieri in invasione a Roma. E Stravecchio le ha aperto prima le porte. Ma non è lui che ha aperto le porte, anzi, al contrario, quello là è uno che vorrebbe... Ma lui deve chiudere le porte, perché non abbiamo più una lira, devono tutti questi stranieri, si portano fuori, i soldi fuori, lui deve chiudere le frontiere, lui deve dire basta, adesso non si compra più nessuno, e dobbiamo cercare di portare avanti il calcio italiano. Stravecchio non lo fa, perché amiche, il tuo presidente, l'ho detto, vabbè. Tony, vabbè. T'abbraccio, ciao, a presto, ciao. Aspetta, perché appena dico l'ho detto, si chiude, scusa. No, non volevo chiudere per questo. Ciao, caro, ciao, a presto, ciao. Breaking news. Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo stadio Ricci in vista della trasferta di domenica contro la Sampdoria, seduta defaticante per i grandi calciatori impiegati ieri sera contro il Cagliari. Per il resto del gruppo, riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo, manovra e partita della finale sul campo ridotto. Lavoro differenziato per Francesco Maganelli ed Emanuele Terranova. La squadra del Sassuolo sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse alle ore 12.45, conferenza stampa con mister Eusebio Di Francesco. Veramente è una cosa incredibile qua, cioè. Cosa è successo? No, ma la breaking news ancora una volta sul Sassuolo, sull'allenamento del Sassuolo. Fondamentale. Stadio Maffei, ma scherziamo, ma fondamentale. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Cruciani, hai rotto il cazzo, sei diventato vecchio e noioso, fuori dai coglioni. Antonella Padova, vai! Sì, ciao! Ciao, dimmi! Ascolta, ciao! Io sono stanca di sentire mortificare e infierire su chi fa una scelta seria come quello di non mangiare carne di animale. Deve finire questa cosa. Ma che cosa, c'è un cane, cioè, dietro? Chi c'è un cane? Sì, io ho i cani, sì, no, ho i cagnolini. No, perché vivi con i cani, in sembriamo una banda di invasati, però è una scelta di vita e va rispettata. Ma chi non rispetta? Uno può fare la scelta che dal vuole. Dal momento che tu dici che tu sei libero di mangiare la carne di coniglio come quando vuoi. Beh, quello mi pare scontato però. Scusa, come tu sei libera di scegliere il veganesimo, sono libero di continuare a mangiare. Ah no, spiegami perché. Da finire questa cosa che, cioè, per quale motivo devi dire una roba del genere? Come, scusa, o sei ubriaca, cioè, o sei ubriaca oppure stai parlando seriamente? No, io non sono ubriaca. Benissimo. Se non sei ubriaca, no. Allora cerca di capire quello io che ti dico. Io ritengo non rispettoso nei confronti di esseri che non è colpa loro se nascono o conigli o cani o gatti o che vanno rispettati. Qui siamo su un altro piano, però siamo su un altro piano. Tu stai dicendo che è sbagliato uccidere gli animali per mangiarseli, giusto? Ma c'è, no. Certo, è sbagliato. Ma allora non parliamo nemmeno se tu in tutti i sensi e tantomeno anche per mangiarli. Sì, ma ho capito. Se quindi, io mangio, ecco, se io mi voglio, ho capito, se però, io voglio continuare a mangiare ma guarda che incredibile, se io voglio continuare a mangiare la carne di coniglio o altra carne, perché devo essere considerato un assassino, un affamatore del pianeta? Ma non lo puoi dire, sbandierare così su una radio nazionale. Ma perché uno non può dire che mangia la carne? Non ho capito. Ma guarda che è incredibile questa roba qua, dai, io posso dire tranquillamente, ma scusa, ma voi animalisti, voi vegani, potete fare il cazzo che volete, fare tutte le campagne che volete, io non posso fare nulla, non posso portare davanti in radio campagna. Ma tu no, i tuoi amici, i tuoi nei confronti di esseri viventi che soffrono e che sono in balia della un po' della ma sì, qui siamo su un altro, capito? Guarda che qua con gli allevamenti intensivi dai conigli ai maiali, vabbè, ci sono gli allevamenti intensivi, per carità, bisogna anche ci sono, ma per carità bisogna regolamentare il pianeta, distruggendo il pianeta, questa è una boiata, certo. Una boiata di dimensioni cosmiche, ti hanno perché indottrinato con questo nuovo dare un euro e un pezzo di formaggio magari senti, costa il triplo, ti hanno indottrinato con questa nuova con questa nuova teologia, questa nuova teologia della liberazione, queste stronzate che dicono sugli allevamenti intensivi che distruggono il pianeta, puttanate. Penso che no, tu lo dici perché ormai fa parte del tuo personaggio, ma sono convinta che sotto sotto non la pensi così. Ma come sotto sotto non la penso così? No, la penso così. Una volta, si è sempre mangiata la carne, l'uomo è sempre stato purtroppo carnivoro, purtroppo. Però non c'era l'abuso che c'è adesso. La carne si mangiava una volta alla settimana. Ma non c'è nessun abuso, guarda che se ne mangia adesso molto meno costa una volta. Meno la carne di qualsiasi altro alimento perché... La realtà lo sai qual è? No, a causa del fatto che siamo di più. Mangi un coniglio, siamo di più. Che cosa te ne viene dentro? Cioè, siamo di più. Cosa? Siamo di più. In che senso siete di più? Siamo di più gli esseri umani, siamo di più e dunque è per questo che ci sono gli allevamenti intensivi, perché siamo di più. C'è da sfamare più bocche. Cioè, ma come va là? Mi pare abbastanza evidente. Assolutamente. No, vabbè. E comunque non sono neanche d'accordo. Senti, Antonella, io devo mandare il traffico, amica mia. Tu vivi con i cani? Io sì, ho due cagnolini. Due, sei fidanzata? Ti fidanzeresti con uno del mangiare? No, sono sposata, ho 55 anni, ho due figlie. È vegano? Tuo marito è vegano? Sono l'unica vegetariana in casa. L'unica vegetariana, vabbè. L'unica, sì. Però la carne per il tuo marito, per suo marito la cucina, no? No, io non la cucino. E chi la cucina? Però si può portare carne in casa? Vuole se la cucina lui. Ma ne mangia pochissimo, non se ne fa abuso. Insomma, ultim'ora. Aspetta, fermi lì. Ultim'ora. Gruppo di animalisti libera 315 orsetti gommosi. Beh, meraviglioso. Sai gli orsetti gommosi? Lercio, ciao. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte il giorno. Allora, questa settimana, presi dal coniglio, ci siamo dimenticati di un po' di notizie di politica importanti che ci sono state negli ultimi giorni, caro Parenzo. Io farei un piccolo riassunto con qualche piccolo commentino. Bravo, qualche piccolo commentino. I giudici della corte, ad esempio. No, ma non me ne frega, non me ne frega assolutamente nulla. No, assolutamente. No, vorrei regalarti un giudizio di Crozza sull'idea di Renzi di dare 500 euro di bonus ai giovani. Molto, sì, molto carina, Crozza. Berlusconi è tornato, si è scagliato contro il bonus da 500 euro che Renzi ha promesso ai diciottenni, ha detto che per lui è una mancia disgustosa, e ci credo, ragazzi, lui alle diciottenni ha sempre regalato almeno un appartamento, sempre che fossero diciottenni. Questa l'ho trovata geniale, alle diciottenni ha regalato un appartamento. Certo, Berlusconi che critica il bonus da 500 euro mentre lui ha regalato denaro alle donne, no? Molto giovani, è abbastanza ridicolo. Sono due partite diverse, ovviamente. Beh, no? No. Però, capito? Però uno anche i comportamenti privati contano, eh? Non è che non contano i comportamenti privati. Sei il primo a dirlo, adesso non lo dici. No, Renzi, vabbè, in questo caso è una battuta molto divertente. Ma che c'entra la battuta? Sto parlando dell'oggetto della discussione. La battuta si poggiano sempre su delle cose, no? Renzi Vespa, dai. Se gli mandate 500 euro, quelli se li vanno a spendere a Flipper, voglio dire, insomma. No, Flipper Vespa, ora diciottenne, se lei mi trova un diciottenne che va al Flipper Vespa, è cascato su Flipper lei. Ma come, cioè, il tema del Flipper è un... Beh, su questo Renzi c'ha un po' ragione, cioè, certo. Vespa è rimasto indietro. È come il mangianastri, è rimasto indietro di... il Flipper 500 euro, vabbè. È come il mangiacassette di Berlusconi, guarda. Allora, c'è una vicenda che è quella degli scontrini di Renzi, che è stata un po' abbandonata e che abbiamo... Mi pare archiviata. Sì, abbiamo archiviato la Corte dei Conti. Secondo me questi scontrini devono uscire fuori per una questione di trasparenza, per una questione di conoscenza, per una questione di... io direi quasi di democrazia, cioè. Sì, ma dal punto di vista giudiziario è tutto archiviato. Sì, la Corte dei storia. Conti ha archiviato. Ha maggior ragione adesso, dopo che la, certo, Corte dei Conti ha archiviato, giusto, siccome dice che non c'è nulla, in realtà la Corte dei Conti non ha analizzato lo specifico, cioè non ha deciso se una cena è stata una cena familiare oppure no, ha semplicemente fatto un controllo, insomma, tutto sembra regolare. Sì, ma anche perché non è che ha potere ispettivo che va a verificare che non ha dato, la non cena... ha dato gli scontrini alla Guardia di Finanza, cosa abbastanza strana. Comunque, al di là di questo, al di là di questo, bisogna che a questo punto, una volta archiviato, questi scontrini escano fuori. Sì, ma a quel, cioè, punto cosa salta fuori? Cioè, ma non lo so, però intanto vediamoli. Scusa, se non c'è, sì, nulla, no, da nascondere. Sono d'accordo con te, ma a quel usciamoli punto cos'è fuori, che vedi? Escili, cioè, escili. Vedi gli scontrini, Nardella, con sopra scritto 40 euro, cena Cruciani, e poi uno va a controllare, e poi uno va a controllare nello specifico scontrino per scontrino. Ma uno chi se l'ha fatto la Corte dei Conti? No, i giornalisti, scusa, tutti vanno a controllare. Sono due cose diverse. Una cosa sono le indagini dei giornalisti quando le vogliono fare. Una cosa è l'indagine della Corte dei Conti che, come dire, ha dei criteri di un certo tipo. I giornalisti si occupano anche di andare a vedere poi il singolo ristorante, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, chiamare con chi era Renzi, insomma, le cose vanno rese pubbliche. Non capisco perché i soldi nostri, sì, sì, no, questo, spesi dal Comune di Firenze in un certo modo, non debbano essere rivelati, cioè come vengono spesi non debba essere rivelato. Mi sembra una cosa fondamentale. Hai ragione. Di Battista 5 Stelle, dai. È tutto abusivo, Presidente. L'unica cosa che non è abusiva ma è reale è il patto del Nazareno, che è vivo e lotta contro i cittadini. Basti pensare alle ultime dichiarazioni del Presidente Berlusconi, che attacca più il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico perché sono la stessa cosa, o le stranezze che avvengono in Mediaset, dove alcuni strani servizi sugli scontrini e le spese pazze del Presidente Renzi stranamente non vanno in onda perché Mediaset non le fa andare in onda. Questo è il patto del Nazareno, grazie Presidente. Adesso io non lo so se ha ragione Di Battista dicendo che il patto del Nazareno ancora esiste, e una delle prove è il fatto che Mediaset non manda in onda il servizio delle Iene. Certo, è un po' strano ed è tutto da verificare ancora che una trasmissione importante come le Iene, una trasmissione d'inchiesta con un servizio pronto, già in scaletta, per credo un paio di settimane fa, poi alla fine abbia ritirato questo servizio. Almeno ce lo spiegassero, siccome era in scaletta, eccetera. Mo. Beh, dico, altrimenti... sai quante cose non vanno, cioè non vanno in onda. Però una spiegazione non l'hanno data. Ieri il sito delle Iene è stato tempestato perché... di richieste da questo punto di vista. E il mio amico Giarrusso ha dovuto praticamente chiudere il suo account Facebook e gli chiedevano, insomma, tira fuori, spiegaci perché non è andato in onda. Io credo che una spiegazione vada data. Cioè, ma il patto del Nazareno cosa c'entra? Io non lo so, il patto del Nazareno perché, non c'è più perché Di Battista pensa. Beh, ma oddio. Sì, ma appunto, però bisogna spiegare. Cioè Di Battista spiegare. Quello pensa che il patto patto del Nazareno, cioè l'accordo tra il PD e Forza Italia, sia ancora esistente. Ma dove sì, lo vedi l'accordo? Sì, più che altro tra PD e Mediaset, dice lui. Tra PD sì, e dove lo vedi l'accordo? Dov'è? Secondo lui una delle prove è il fatto che quasi, evidentemente qualcuno vicino al Presidente sì, del Consiglio Mediaset, chiama... Che cosa vuol dire? La trasmissione del debito qualcuno chiama, non mi qualcuno pare, chiama no? E dice... qualcuno chiama. Le partite si giocano non sulle trasmissioni, su altre cose, dice Di Battista. Cioè, qualcuno vicino a Renzi chiama e fa togliere il servizio. Questa è la sostanza, dai. Oppure qualcuno... Mi autonome... pare una follia, ma insomma... Vedremo. Nicola da Bari, che non è il famoso Nicola da Bari, ma è, Nicola una, da Bari, è un ascoltatore. Nicola, vai. Nicola. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, dimmi Nicola. Già, come va? Sto posto, complimenti comunque per tutto quello grazie, che fate, grazie. Per la trasmissione. Okay, dimmi, tu fai l'agente immobiliare, leggo qua, no? Sì, agente immobiliare, sì, che ci vuoi raccontare? Purtroppo. No, qualcosa su quello che si fa in giro per fregare la gente. Cioè? Nel senso, allora, è capitato, ci sono delle persone che vanno in giro, vedono cartelli fittasi, prendono contatti o con l'agenzia o con la persona direttamente che fitta l'immobile, sì. Si presenta ovviamente una persona distinta, già che cioè, rispettabile, eccetera. Sì, assolutamente. Chiede di vedere l'immobile, sì. Ovviamente si accompagna, si fanno firmare ovviamente le carte di visita e tutto il resto. La persona va a vedere questo immobile, gli piace subito, sì. Non discute il prezzo, anzi dice lo blocco subito, quando vuole dica para 3 mesi, quando è l'affitto 1000 euro, 1500, non c'è problema, stacca un assegno, dà questo assegno. Ok, domani poi passo e faccio tutto quanto il resto. Cioè bloccano subito l'appartamento dando bloccano una caparra subito. O addirittura dando più soldi della caparra, non ho capito. No, una caparra. Una caparra, ok. Te danno 2 caparre, 3 caparre secondo degli accordi. Passa un giorno, il secondo giorno ovviamente richiama la persona per vedere l'immobile con i suoi familiari. Sì. A questo punto ovviamente o l'agenzia o la persona o il proprietario direttamente si mette a disposizione, lo porta là, quindi fanno vedere questo immobile, però a questo punto non si presenta da solo, sì. Si presenta con una compagnia, con una truffa, sembra un circo, si presentano con almeno 10-15 persone, con cani, gatti, e in qualche caso anche animali domestici, scombigliando un po' il condominio, tutti quanti si affacciano, ovviamente loro tengono a farsi sentire, a farsi vedere. Ma che sono rom questi qua? Anche rom, si fanno vedere in giro, insomma, sì l'immobile ci piace, qua faremo questo, faremo quell'altro, se c'è un giardino poi peggio che peggio, qua ci pianteremo questo, ci faremo questo e quell'altro, quindi portano un po' di scompiglio in ambiente magari signorile oppure medio signorile. Vanno via e allora ecco qua, il proprietario... Ecco. Va in crisi, l'agenzia va in crisi e soprattutto i condomini che cosa fanno? Chiamano il proprietario e dice ma scusa, ma chi vuoi portare all'interno di questo condominio? Come dobbiamo fare? Il giorno dopo trafila, si chiama questa persona o l'agenzia o il proprietario, dice sente l'immobile purtroppo il proprietario ci ha ripensato, ti diamo indietro la caparra, 3.000-4.000 euro. No, per legge dobbiamo avere il doppio della caparra, perché chi si prende dà il doppio della caparra. E allora? E qua cominciano i problemi, nel senso questo è un trucco fatto apposta. Ah, ho capito. Cioè tu mi stai dicendo che loro praticamente prendono l'appartamento, Rom in particolare, diciamo la verità adesso, diciamola tu. Rom, famiglia Rom, Zingari, prendono l'appartamento, portano alla prima visita un sacco di gente, entrano addirittura, che ne so, dentro il condominio con le loro macchine, che ne so, camper, cose che fanno. Camper, possibilmente. Camper pure, camper. Allora, incredibile. Camperlotte, eccetera, anche galline, altre cose. Quello gettano che scompiglio nei condomini, nel palazzo, quello che è. A un certo punto il proprietario chiama dicendo ci ho ripensato, ripensato. E però per legge deve per dare legge devono dare il doppio della caparra, quindi se ha dato 3.000 devono dare 3.000. Ma secondo te è una cosa diffusa questa qua? Insomma, si sta diffondendo la nuova tecnica noi, Rom per fregare tecnica, i soldi. Beh, stupendo. Qualche volta noi li abbiamo bloccati subito, perché abbiamo capito che cioè, quando una persona ti chiede quanto è l'immobile, 1500 euro al mese, mi sta bene, ok, 3 mesi anticipato subito. Oddio, qualche sospetto ti viene. Fermo lì, torno subito. Nicola, non te ne andare. Ma che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse la lavatina di capo a te ti farebbe bene. Vittorio Feltri e le 77 Vergini, eccezionale, sentite. Bisogna però che anche noi impariamo ad avere tolleranza nei confronti delle altre religioni, perché noi continuiamo anche a prendere in giro i musulmani perché hanno le 77 Vergini, no? Sì, sai sì. Che loro, sì, sì. Mi domando anche dove vadano a prendere, perché oggi è anche difficile. Vabbè, Feltri, adesso... No, ma... Oggi è anche un po' difficile trovarle. Vergini, non è male questa cosa qui, eh? No, poi ti voglio fare sentire questa cosa di Luttwak, che è strepitosa, strepitosa. Luttwak. No, sì, sì, il mitico Edward Lupe, che c'è? Professore. Professore, che c'è? Professore? Noi, hello? Sì, sì, mi dica. Washington? Mi dica. Sì. Noi pensa che c'è solo un problema oggi nel mondo? Sì. Che si chiama Camusso? No, ma che c'entra adesso? Abbiamo molto, tanti problemi. L'ISIS ha rivendicato la strage di San Bernardino. Molto problema piccolo, problema grandioso in Europa. Chiamano il sindacato, in particolare Camusso, con quel simbolo rosso CGL che fa scioperi, proteste con manifestazioni. Vabbè, sì, fanno gli scioperi. E allora il grande problema nel mondo, noi discutevamo con Obama a Casa Bianca del problema del mondo intorno al tavolo, allora? Con Hollande, con Putin. Vabbè, allora? E siamo tutti d'accordo che il problema è Camusso. Ma non è vero, ma non, quindi il problema non è la Camusso. Bombardare la sede di Camusso di Corso Vittorio invece dell'ISIS. Ma l'ISIS è piccolo problema, piccola questione che risolve. Con drone arriva su Roma, bombarda e risolve il problema sindacato, laboratori, Pompei, grande problema internazionale. Pompei non è proprio ISIS, che sia il califfo che dice Allah, cioè, è più problema... Scusi, se non ho capito male, Luttwak, che è più pericolosa la Camusso dell'ISIS, più pericolosa la Camusso. Abbiamo fatto con Council Foreign Office grande incontro Hollande, Putin, sì. Obama, litigavano su tutto ISIS, come combattere Assad, Siria, sì, sì, su allora... Camusso tutti d'accordo. È il grande problema di Camusso, di Italia, di Europa. Ma di lei mondo. Pensa, adesso le faccio riascoltare una cosa che ha detto: che in realtà ci sono più americani che muoiono scivolando in bagno. Scusi, aspetti un attimo, aspetti. Come pericolo è molto piccolo. Molti più americani muoiono scivolando nel bagno di come sono uccisi coi terroristi. Incluso l'11 settembre. Beh, questo è, professore, io mi permetto di dire, professor Ruto, questa è una cosa che lei ha detto nei giorni scorsi, una cosa francamente un po' esagerata. Mi pare evidente, dati statistici dimostrano che appunto vai in bagno per fare il bidet classico, cosa che ad esempio risulta a Radio 24, giornalisti Cruciano non fa bidet, quindi non correrà questo rischio. Cruciani si chiama. Non ricordo il nome di questa, sì, persona, che è inutile anche totalmente. È riconosciuto come totalmente inutile. Ma no, ma chi l'ha detto? Quindi abbiamo parlato con Putin, con Assad, con Siria, con Hollande, con tutto. Cosa di Cruciani? Anche abbiamo ritenuto che è inutile radio. Vabbè. Totalmente inutile, anche questa in mano al sindacato ormai. Ma Confindustria. Sì, mette d'accordo, sindacati con Confindustria si spartiscono potere, una porcheria. Vabbè, unica, solo allora... in Italia esiste questo. Quindi il problema per chiudere, non riguarda, sì, Cruciani, perché Cruciani non va in bagno, quindi non lavandosi non cadrà. Non scivola. Ma non indubbiamente il problema enorme è quello di americani che scivolano nel bagno, quindi si fanno del male. Quindi va bene, grazie. Se sei problemino minimo, 0,024%. Eravamo con Nicola che ci raccontava, Nicola da Bari, un agente immobiliare, che ci raccontava la nuova tecnica ROM, che in realtà, mi scrivono, non è poi così nuova. È un vecchio trucco che evidentemente si ripropone, perché sembrava superata questa roba qui, o no? Sì, dunque sicuramente, però devo aggiungere un'altra cosa. Sì. Io ho parlato del fit, ma pensiamo a una vendita. Sì. Che cosa possa succedere in un ma i rom mica si comprano le case. Come no? Si comprano pure le case, dici. Certo che e cioè comprano. Che fanno? Comprano le case? Niente, danno una caparra, ma non maggiore, di euro. Maggiore, sì, dice lei? Di 10-15 mila euro, poi per evitare tutto questo scompiglio, ovviamente loro devono riprendere almeno il doppio. Ecco, cioè, qua, il proprietario addirittura in alcuni casi ridà a questi signori il doppio della caparra pur di non avere rottura di coglioni. Ma per legge innanzitutto deve dare il doppio se si pente, quindi lui è costretto a... Sì, ma addirittura uno si pente di aver venduto una casa ai rom, perché quelli che creano scompiglio. È la prima fase, quindi è la prima fase, questo qua, ancora l'atto non è stato fatto, quindi sì, è una prima fase, un primo approccio. E quindi facendo questo qua ovviamente crea scompiglio all'interno, soprattutto se villetto oppure altro, sì. Un piccolo residence, si porta gente del genere. Certo, ne pensano una più del diavolo. Ne pensano tante. Ma questo volevo dire a favore, un piccolo salto a favore nostro. Cioè? Le agenzie servono a questo pure. Vabbè, ma se non che ci frega di questo. A limitare i danni. Grazie Nicola, ciao, a presto, ciao. Un abbraccio a voi. Ciao, grazie. Roberto Cremona, vai! Ciao, saluta. Dimmi, Roberto, dimmi. Chi è? Saluta chi? Chi mi stai passando? Ciao tesoro, quanti anni hai? Ho salutato. Sì, quanti anni ha? Ho due. Due anni? Quattro mesi, sì. Beh, ancora può ascoltare la zanzara, quando cresce un po' meno, eh? Sì, cioè, quando cresce un po' meno. Sì, bellissimo. No, dimmi. Volevo dirti prima... No, praticamente c'è gente che ama il coniglio, no? Sì. Ma gli vuole ben tanto bene. Sì. Tu gliel'hai mangiato in faccia, in pratica. Allora? Hai usato un simbolo, no? Quindi praticamente tu dici a quel tizio là di prima, i simboli religiosi possono diventare anche dei Kalashnikov, no? No, lui l'ha detto, non bruci io. Un crocifisso, per esempio. No, ma non è la stessa cosa, non mi puoi dire che mangiare il coniglio... Ma non mi puoi dire un'arma. No, ma però non mi puoi dire il coniglio... La stessa cosa. No, mangiare il coniglio è come bruciare un crocifisso, dai, su, ma non sì, può essere così. C'è gente che... Metti che in una religione magari il coniglio può essere divinizzato, no? No, parlami meglio, che sennò non capisco. Dai. La provocazione ci sta, però. Dai. No, è una cazzata. Come provocazione? L'hai mangiato in faccia e magari a me, io amo il coniglio... Fortunatamente a me piace, lo mangio, però... Vabbè, ho capito, però... Cioè, non... Hai fatto una cappella. Ma diciamo. Quale cappella? Ma quando mai? Dai, su, ma assolutamente. Paolo Udine, grazie Roberto. Paolo. Sì, salve, dimmi. Io ho chiamato per raccontare un episodio che è accaduto qui a Udine qualche settimana fa. Un cacciatore ha ucciso un cane, sì. Sostenendo poi quando è stato accusato di averlo fatto per legittima difesa. Ma al di là, in sé dell'episodio, si è scatenata una polemica infinita. Su questo gesto e si sono le associazioni ambientaliste animaliste hanno... Ma non sei tu il cacciatore, no? No, non sono, io sono il presidente di un'associazione di cacciatori in Friuli. Sì, sì. E quando è stato dato questo risalto alla ricerca, cioè ha ucciso un cane per legittima difesa, cos'è che ha fatto? Ucciso un cane per legittima difesa. In che senso per legittima difesa? L'ha ucciso per sbaglio? No, il cane, cioè lo stava assaltando, che stava facendo forse, esatto. Che ne sai? Esatto, questa è la versione che lui ha reso quantomeno ai giornali. E gli stanno rompendo i coglioni? Ma al di là che a lui hanno portato via il porto d'armi, ma vi rendete conto? Sì. È che poi ho, diciamo, parla più forte, però, amico mio, se no non si capisce niente. Ho fatto un comunicato stampa al Messaggero Veneto dicendo che la rilevanza che mi hanno dato alla notizia non la meritava, che in realtà era stato ucciso un cane, non un uomo. E non un essere umano. Su questo, vabbè, però c'era il fatto del coso, dai, c'era la questione del, no, del cacciatore, no, non è che è stato ucciso un cane così. Questo c'era sicuramente, però poi da una semplice affermazione che mi pareva anche banale e ovvia, perché dire che un essere umano... Ma qui non è che si discuterà la notizia, perché ci sta chiamando? Perché ci sta chiamando? Non ho capito. Per raccontare questa vicenda, nel senso è successo adesso per l'uccisione di un cane e per una banalità, perché in fondo sostenere che un cane non è un cristiano ci ha fatto quattro pagine di giornale. Vabbè, ma è normale, perché in questo momento c'è molta attenzione su queste cose animaliste. Sinceramente non do la colpa al giornale di essersi occupato di questa roba. Dai, Salvatore Agrigento, dai, andiamo avanti. Sì, salve. Vai. Ritornando praticamente con la situazione di Vecchioni, il professor Vecchioni, ci sono un sacco di siciliani che mi hanno scritto dicendo che loro scapperebbero dalla Sicilia e che ha ragione Vecchioni al 100%. Sì, ti giuro, c'è una marea di siciliani che dicono Vecchioni ha ragione al 100%. Che Io sono il classico siciliano che quando salgo praticamente, cioè salgo, quando passo lo stretto di Messina automaticamente già ho nostalgia di casa mia. Vabbè, però questa, amico mio... Sì, vabbè, lo sono... Ma sono... Vabbè, ma ho capito, ma allora che vuoi dire? Non ho capito che cosa vuoi dire di Vecchioni. Ma come cazzo fa a dire una persona che scende in una regione, io salgo praticamente a Milano una volta ogni 3-4 mesi, ho mia madre che vive praticamente a Milano. Avevo un'ex ragazza che sta a Brescia. Vabbè, allora? Come cazzo fa a dire una persona paese di merda? Cioè, isola di merda. Beh, lì l'espressione è quella. Non gli piacciono. Se uno dice, vede certe cose, la può definire un'isola di merda. Non ama la Sicilia. È un'isola di merda. Cazzo. Cazzo. Allora, lo diceva dispiaciuto per i disservizi, non perché ne sia convinto. Francesco da Milano, non l'ho capito. Ma bene, Salvatore. Questo. Sì, no, pienamente d'accordo. I disservizi ci sono sempre stati, ci saranno sempre. Abbiamo un governo senza palle, vabbè, abbiamo un presidente senza palle, è normale. Vabbè, amico mio, arrivederci, ciao. Parenza, ascolta, ma se ti fa così schifo a gente che telefona o che ascolta la Zanzara, ma perché non te ne vai alla 7? Che fai un favore a tutte, guarda, veramente, fai veramente pena, non puoi offendere così la gente. Parenza, fai il bravo, dai, perché quando si offende poi uno come te, viene fuori la fine del mondo. Dai, fai il bravo, vattene alla 7, vai a fanculo alla 7, vai. Ragazzi, cioè, ieri sera ho seguito gli insegnamenti del maestro e, cioè, che dire, tanto di cappello. Cioè, io non ero uno sprovveduto, pure prima, insomma, lì in mezzo dicevo la mia, però c'ha ragione. Se tu pensi a delle labbra, pensi al bacio, niente, le fa impazzire. Questa ieri sera è impazzita, non se ne andava più via, te lo giuro Giuseppe, una cosa da Nobel. 2018, governo Cruciani, capo di gabinetto David Parenzo, ministro dell'integrazione Marione Borghezzi, ministro della salute dottor Lemme, giustizia avvocato professor Carlo Tormino, sviluppo economico Valentina Nappi, rapporti con il Parlamento onorevole Gianluca Buonanno, difesa Edward Lupac. Siamo al top. Grandissimi i nostri amici Rom, grandissimi, un passo avanti sono. E dopo ci si scandalizza se qualche imprenditore tira fuori una magnum dell'ispettore Callaghan e spara, no? E dopo ci lamentiamo, ci scandalizziamo, grandissimi Rom, grandi. Boom, ci vuole. Ci sentiamo lunedì, caro Parenzo! Ce n'è pure per te in questi messaggi, eh! Te ne ho messo solo uno. In questa trasmissione più di puttane, vegane e omosessuale non si parla. Io come un coglione ogni sera mi sintonizzo e ascolto come un cretino. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.